Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Alla fine del Settecento molte grandi città nel pieno della rivoluzione industriale avevano ancora un impianto medievale, prime fra tutte Londra e Parigi, ma una popolazione 10 volte superiore che così veniva colpita periodicamente da pestilenze e cose simili. Per questo, a partire dall'inizio dell'Ottocento, molte città sono state profondamente ristrutturate, con strade ampie, viali alberati e soprattutto sono state dotate delle prime reti che avrebbero reso intelligenti le città nel senso in cui potevano esserlo le città ottocentesche, le reti dell'acqua e le reti fognarie. Ma se la fogna ha reso intelligenti le città, ora è venuto il momento di rendere intelligenti le fogne. È quanto stanno tentando di fare a Padova, dove la società di servizi locale ACE Gas APS AMGA del gruppo ERA sta portando avanti una sperimentazione di grande interesse proprio nella logica della Smart City, da cui prende il nome anche questa nostra trasmissione. Ne parliamo con l'ingegner Roberto Gasparetto, direttore generale di questa società con un nome lunghissimo, nobiliare ACE Gas APS AMGA. Buonasera Gasparetto. Buonasera. Allora senta, il primo punto, e non sembri strano perché è un problema assolutamente generalizzato, è mappare la rete fognaria lì di Padova. Sì, è assolutamente necessario prima di tutto mappare la rete. La rete di Padova è stimata avere una lunghezza di 1300 chilometri, alcuni ancora da conoscere. Per conoscere questa rete noi stimiamo sia necessario acquisire 3 milioni e mezzo di informazioni, che sono le pendenze, i diametri, la presenza delle caditoie stradali, le pompe e quant'altro. Va parametrizzata, si dice così, la rete. Ci vogliono 3 milioni e mezzo di parametri sostanzialmente, lei sta dicendo, no? Sono 2500 dati ogni chilometro. Questa raccolta di informazioni è assolutamente imponente, la stiamo facendo assieme con i consorzi di bonifica, con la regione e con l'autorità di bacino, che sono gli enti che con noi gestiscono le acque della città di Padova. Il tutto serve per descrivere puntualmente questo sistema circolatorio della città, che sovrapponiamo a un sistema di territoriale che viene acquisito con le informazioni già disponibili, integrate con una... Quando dice sistema territoriale intende delle mappe, dei GIS, dei sistemi informativi geografici sostanzialmente? Sì. Quindi le mappe geografiche, la topologia del luogo, incrociate questi dati. Incrociamo questi dati con un rilievo aereo a infrarossi che permette di avere una precisione millimetrica nella giacitura dei terreni, in modo tale da collegare il deflusso delle acque nelle fognature con i livelli del terreno. Per completare questa ricerca di informazioni, noi facciamo anche delle video ispezioni con delle telecamere che vengono infilate all'interno delle fognature, che ci permettono di capire dove corre la fognatura, che diametro ha, che materiale. Più una roba d'archeologia, si direbbe. Senta, una volta che avete tutti questi dati, che cosa ve ne fate? Una volta che abbiamo tutti questi dati, li incrociamo con i dati pluviometrici. Ok. Questo sistema viene messo insieme in un modello matematico, che è un modello che simula il comportamento della rete fognaria in presenza degli eventi pluviometrici più vari. E questo vi consente di capire che cosa? Ci consente di capire che cosa succede in presenza degli eventi pluviometrici, ci permette di capire perché e dove ci sono le esondazioni, ci consente di ottimizzare gli interventi, quindi di spendere in maniera oculata i soldi disponibili per gli investimenti, per fare gli investimenti quelli opportuni per risolvere i problemi. E questo vi aiuta a fare manutenzione e a progettare i miglioramenti. Ma poi c'è anche un elemento, diciamo, di utilità nel momento in cui si verificano queste precipitazioni eccezionali, che tanto eccezionali ormai non sembrano neanche più essere. Infatti, questo è il vero valore aggiunto ed è il vero motivo per il quale noi pensiamo che questo sia un oggetto proprio tipico. Ecco, ci spieghi. Ed è proprio la possibilità con questo di fare della prevenzione. Sulla base delle previsioni meteo, certo, collegando le previsioni meteo con la conoscenza così dettagliata del sistema, noi siamo in grado di fare della prevenzione, quindi di individuare prima che l'evento ci verifichi quello che può succedere. E in presenza dell'evento ci permette anche di gestire l'emergenza in maniera molto più puntuale, che è proprio, molto più efficiente. Eh sì, che è proprio quell'idea di città governata in tempo reale, che secondo me è il modo, diciamo, più sintetico per definire il concetto di Smart City. Quindi sta per arrivare una precipitazione, voi sapete che quella zona tendenzialmente si allagherà, per cui si possono prendere dei provvedimenti, no? Avete già immaginato delle azioni precise che si possono compiere quando i vostri modelli vi dicono che sta per succedere un patatrac? Sì, noi avevamo ipotizzato di interagire intanto ad esempio con l'azienda che gestisce i trasporti per indicare loro eventuali percorsi alternativi sì. per i mezzi, ma piuttosto per i commercianti di alcune zone fare delle azioni di prevenzione sì. per evitare anti-allagamento, certo. E comunque mettere in sicurezza, accelerare le azioni di messa in sicurezza dei sistemi che sono potenzialmente impattati dagli eventi. Grazie Roberto Gasparetto. Grazie a tutti, arrivederci. Bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, vi lascio Effetto Notte, buona serata.